Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Mellis. Si parla spesso di spending review, si parla di costi standard, ma se ne parla e basta, perché poi continuano ad arrivare sempre tagli lineari. Allora, questa sera vi vogliamo raccontare di una ricerca condotta da Roberto Gerbo, esperto in gestione energetica e consigliere di AssoEge, che è l'associazione degli esperti appunto di gestione energetica, figura oggi piuttosto rara e anche l'unica nel settore dell'energy management le cui competenze sono certificate. Buonasera Gerbo, intanto. Buonasera a lei, grazie. Dunque, lei ha condotto in pratica di sua iniziativa un'indagine su oltre 4.000 comuni per parametrizzare la spesa energetica e stimare i possibili risparmi energetici. Stiamo parlando in pratica di definire i famosi costi standard per quanto concerne i consumi energetici dei comuni, comuni con una popolazione compresa tra i 2.000 e i 60.000 abitanti. Allora, intanto Gerbo, partiamo dai dati. Da dove arrivano i dati su questi consumi energetici? Ma i dati, dato che purtroppo a livello della pubblica amministrazione non esiste un catasto energetico, i dati arrivano dal sistema SIOP della pubblica amministrazione, in particolare della Ragioneria dello Stato, dove ogni mese i comuni riversano i dati sostanzialmente articolati per i vari codici a livello di bilancio. Cioè ogni ente pubblico dice: abbiamo speso tot per questo, tot per quell'altro. In una quarantina di codici di spesa, quindi centri di costo, diciamo così. Ok, d'accordo. Però io so che lei ha fatto una gran fatica in realtà a ottenere questi dati, che in teoria, ricordiamolo perché si continua a parlare anche qui di trasparenza, in teoria sono pubblici. Sì, allora i dati sono perfettamente pubblici perché l'insieme, la scheda complessiva del singolo comune è disponibile sul sistema SIOP ed è quello che noi abbiamo fatto. Io ho tentato, senza successo, di ottenere dalla ragioneria comunque i dati di estrazione informatizzata, solo di quelle cose non è stato possibile. Per cui ci siamo presi 4.200 circa schede Excel scaricate a mano, una per una, dal sistema SIOP dello Stato, che mette a disposizione, e poi abbiamo informatizzato un database che ha permesso di estrarre di lì 7-8 codici che sono i più significativi nel campo energetico. Ecco. E qui abbiamo lavorato. Ecco, e appunto che tipo di analisi avete fatto e che tipo di confronti permette questa analisi? Perché chiaro, parlando dei costi standard, questo è il tema. Beh, essendo un'analisi basata sul multisito, noi abbiamo eliminato tutti i comuni sotto i 2.000 e i comuni sopra i 60.000, perché sopra i 60.000 sono veramente pochi. Questo tipo di analisi permette di confrontare, tenendo conto dei gradi giorno, zona geografica e della dimensione della popolazione del comune. Gradi giorno significa sostanzialmente il tipo di clima che c'è lì? Zona climatica, sì. Permette di confrontare, mettere a confronto comuni che hanno target di popolazione e di esposizione climatica molto similare. Quindi a parità di altre condizioni è possibile evidentemente fare dei raffronti. E che cosa viene fuori? Viene fuori innanzitutto la possibilità di fare una serie di... Innanzitutto viene fuori una fotografia dello stato dell'arte che individua particolarmente i comuni che hanno delle spese unitarie riferite al parametro abitante, che è l'unico possibile in questo caso, di livello totalmente diverso uno dall'altro. Cioè, ripetiamo, mediamente la spesa energetica per abitante quanto è? Guardi, a livello italiano in questi perimetri abbiamo analizzato è circa 67 euro ad abitante. Okay. Però lei tenga presente che... Con una intrinseca variabilità, no? Abbiamo detto. Molto variabile, come dimostrano le possibilità che sono poi di proiezione sotto profilo di polverizzazione di questi dati, dove a livello statistico, come si fa in questi casi, la gaussiana è molto molto polverizzata. Molto larga. Se prendiamo... i comuni di una certa provincia della Liguria, che hanno tutti caratteristiche simili, vediamo che il consumo per abitante può variare anche di 2, 3, 4 volte. Sì. Quindi lì c'è un segnale chiaro che qualcuno spende troppo e qualcuno magari è anche virtuoso. Sì, guardi, in queste analisi non si va a vedere più o meno il 5%. Quando si fa una media si riscontra normalmente che un 60% dei comuni è sopra la media, ma alcuni sono sopra del 5-10, ma tantissimi sono sopra del 30, 50, 200, a seconda dei casi. E quindi è evidente che questo strumento può essere molto utile per fare una scrematura. Ecco, che tipo di risparmi ci si possono attendere? Guardi, noi siamo partiti da questo perimetro che sono 38 milioni di abitanti e 2.500 milioni di euro all'anno. I risparmi che si possono ottenere potenziali arrivano a praticamente a 600 milioni di euro all'anno, che sono 16 euro l'abitante, quindi un 23%. Se cautelativamente noi consideriamo solo un 80% del risparmio sui comuni ordinari e un 40% dei litorali, ma attenzione, non consideriamo che invece è fattibilissimo un risparmio anche in quelli sotto la media, noi otteniamo circa 370 milioni, 400 milioni di euro all'anno risparmiati, che sono circa, perché è una cifra che torna abbastanza bene, 10 euro ad abitante. Grazie, grazie Roberto Gerbo. Arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.